bambina che ti specchi ad ogni istante, mirandoti con dolce ingenuità. Non sai che lo specchietto luccicante talvolta non sa dir la verità. Se questo cuore ascolterai tremante, tra un bacio e un altro bacio ti dirò: tu sei bella, tanto bella, ma lo specchio rifiorirà. Non specchiarti, bambina, non specchiarti, perché chi ti guarda indovina che ti specchi per me. Puoi sembrare carina, e carina sei tu. Non specchiarti, bambino, per piacermi di più. La giovinezza passa come il vento, e non c'è specchio che la fermerà. Ti guarderai negli occhi con sgomento, se un giorno un filo bianco apparirà. Tra i tuoi capelli neri un po' d'argento, come la neve al sole brillerà. Sarai mamma e una fiamma nel tuo sguardo risplenderà. Non specchiarti, bambina, non specchiarti, perché chi ti guarda indovina che ti specchi per me. Puoi sembrare carina, e carina sei tu. Non specchiarti, bambino, per piacermi di più. Puoi sembrare carina, e carina sei tu. Non specchiarti, bambina, per piacermi di più.